si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, io mi raccomando non battiamo la fiacca, andiamo su questo sito di Radio 24, andiamo a votare questo concorso per i primi 12 mesi di Si può fare e si vincono anche dei premi. E come si fa? Si va sul sito, si va alla parte del sondaggio, si scelgono le nostre storie preferite, sono quattro categorie: imprese, storie individuali, associazioni, iniziative, e alla fine voi dite qual è la storia che vi è piaciuta di più. Quelle che verranno scelte saranno richiamate in diretta a raccontare le evoluzioni delle loro iniziative. Voi invece, cari ascoltatori, portate a casa un soggiorno vacanza sostenibile offerto dagli amici di EquoTube. Dunque, mi raccomando, partecipate. Oh, iniziamo anche subito con qualche notizia, un argomento ancora di attualità. In attesa di una legge nazionale, i comuni si muovono da soli. Bari, la svolta per le coppie di fatto, ok al registro delle unioni civili. La giunta ha approvato il registro delle unioni civili, le prime coppie potranno presentarsi negli uffici comunali ai primi di febbraio, dichiareranno congiuntamente di vivere insieme per legami affettivi e sentimentali. A loro verrà rilasciato un attestato che servirà per usi solo relativi a quello che si può fare a livello comunale, naturalmente, quindi trasporti, contributi, edilizia residenziale, cioè avere la casa, per esempio, i bandi per le case, eccetera, queste cose qua. Noi diciamo più diritti per nessuno, non fanno per tutti, non fanno male a nessuno, ed è una buona notizia. Quest'altra viene da Cagliari, ed è una cosa di buon senso, ma chissà se succederà anche altrove. A Cagliari i disabili parcheggiano gratis se il loro posto è occupato. Capita spesso di vedere che qualche incivile mette la macchina dove c'è il simbolo dell'handicap, ebbene in quel caso il vero portatore di handicap potrà parcheggiare gratuitamente dove ci sono le strisce blu. Una cosa che prima non accadeva, una cosa di buon senso, e adesso l'hanno fatta a Cagliari. Questa è bellissima, si può fare anche questo. Sentite qua, contro la crisi arrivano i funerali low cost, rateizzazioni 99 euro al mese, servizi al risparmio. Lo slogan scelto da questa società è: perché piangere due volte? E in effetti ci sono dei prezzi che fanno venire le lacrime agli occhi. Vabbè, insomma, il marketing e il business non guardano in faccia a nessuno. Questa iniziativa viene da Roma, dove la zona di Valle Aurelia e di Boccea è stata tempestata di manifestini che riportavano appunto questo: perché piangere due volte, funerali low cost, rateizzazioni e tariffe scontate. Adesso andiamo ad iniziare. Yeah. When I walk on by, I smell like shit and I'm coming fly. I pimp to the beat, eat from the garbage on the street. Yeah, this is how I roll, paper bag pants out of control. You can find me at the glory hole, winning through the wall for a quick free blow. Girl, look at my body. Girl, look at my body. Girl, look at my body. I eat trash. Please give me some money. Please give me some money. Please give me some money. I eat trash. When I walk in the spot, yeah, this is what they see. Okay. And it's all me. Got a disaster in my pants, and I ain't scared to show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I'm homeless. I'm sexy and I'm homeless. Emergenza freddo e tempi durissimi per gli homeless, cioè per i senza fissa dimora. La cronaca di questi giorni ci parla di dei barboni che purtroppo non ce l'hanno fatta. Un caso a Napoli: uno è morto davanti al Teatro San Carlo in pieno centro, era stato chiamato il 118. Adesso c'è anche un'inchiesta, perché pare che il 118 non si sia mosso a questa chiamata e abbia detto: ma andate a chiamare i servizi sociali. Qualcuno dice che quella dei barboni è una scelta di vita, o che sia così o no, l'importante è intervenire, cercare di aiutare, di fare qualcosa, e soprattutto da questa condizione si può anche uscire. Lo dimostra la storia di Weiner Montini. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Adesso presidente di Clochard alla riscossa, autore di un libro che parla della sua storia, Io sono nessuno, e la storia di un ex clochard. Da quanto tempo, Weiner, lei è uscito da questa condizione? Da 2 anni. È abbastanza fresca ancora la cosa, e comunque io rimango dell'idea, avendo vissuto l'esperienza della strada per 8 anni, che di clochard per scelta non ce ne sono più. Togliamo lo stereotipo degli anni 70 o 60 in cui il vagabondo aveva lo zaino sulle spalle e la chitarra, non è più così. oggi c'è molta gente disperata che chiede aiuto. Quindi alla domanda se Clochard si nasce o si diventa, la sua risposta è si diventa. No, adesso nel 2012-2013 è sotto gli occhi di tutti il fatto che Clochard si diventa. Mm. Ma quale parola preferisce che si usi? Barbone, che è un po' simpatico, guardi, però un po' offensivo. Io sono un barbone, lo sono stato e lo sarò sempre, e non ho nessun problema a sentirmi chiamare o a autodefinirmi barbone, perché comunque non lo trovo assolutamente dispregiativo. Siamo in Italia e vivo i barboni. Mm. E quindi questa è un'esperienza che lei si porterà dietro per tutta la vita, cioè adesso anche se ha cambiato vita, e ne parleremo, però è un bagaglio, delle esperienze forti, sì. Anche è un bagaglio, è un vero e proprio bagaglio culturale. È un vero e proprio bagaglio culturale. Se si riesce a mantenere la mente lucida analizzando il percorso che si fa nel momento in cui si vive un momento di difficoltà, sì, si può trarre solo del beneficio. Cosa ha imparato, per esempio, in questo, cosa si porta di questo bagaglio culturale di questi anni? La vera solidarietà, ma non da parte della tanta brava gente che si dà da fare per aiutare i senza tetto. Io la solidarietà vera l'ho trovata nei senza tetto, perché nel momento in cui si è in cinque e c'è solo una sigaretta, la si fuma tutti insieme. Se c'è un caffè solo a disposizione, lo si beve un po' per uno. Se uno non ha il sacco a pelo, interviene quello che ne ha due, glielo fornisce e gli salva la vita. Questa è vera solidarietà. Io la vera solidarietà l'ho conosciuta vivendo per strada. Quindi è vero che più si sale la scala sociale e anche del benessere individuale, e più questa solidarietà è difficile ritrovarla, secondo lei? Sono forse due tipi di solidarietà diversi, differenti. Uno è una solidarietà per a volte pulirsi la coscienza, a volte lo si fa con il cuore, ma in maniera molto distaccata. La solidarietà che c'è fra persone che vivono la stessa condizione di difficoltà è una solidarietà diversa, si conosce cosa si prova e lo si vive tutti insieme cercando di aiutarsi uno con l'altro. Lei è una persona un po' straordinaria, devo dire, dal suo percorso, perché aveva una vita precedente più o meno normale. Che cosa faceva prima di diventare senza fissa dimora? Prima ancora, adesso tutti i DJ si staranno toccando. Subito prima di finire per strada ero direttore del personale di una catena di supermercati e lo sono stato per 4 anni. Addirittura. Poi prima ancora ho fatto DJ per quasi 20 anni, e arrivando a essere un DJ internazionale, quindi comunque suonavo in giro un po' per tutto il globo. E poi cos'è che è andato storto e che l'ha portata sulla strada? È andato storto che quando ho appeso le cuffie al chiodo, decidendo di diventare grande, accettando un posto che mi permetteva di basare il mio futuro, perché comunque lo stipendio era ottimo, la posizione anche, il contratto, era il classico contratto a tempo indeterminato, inattaccabile, nulla faceva presagire che poi l'azienda dopo 4 anni avrebbe chiuso per bancarotta fraudolenta. E qui quelli che si toccano stanno aumentando, perché tutti temono che la propria azienda possa fare quella fine lì. Monte dei Paschi insegna. Sì. E quindi a un certo punto si è trovato senza lavoro ed è cominciato questo percorso alla rovescia. Però lei non si è arreso, un po' ce ne ha parlato, e adesso ha fondato un sindacato, il primo forse in Italia, dei Clochard. Sì, è nato 8 anni fa il sindacato dei Clochard della riscossa. Adesso diciamo che siamo un po' più alla ribalta, ma 8 anni fa ci siamo, io e altre belle teste conosciute per strada, ci siamo accorti che comunque per un senza tetto i diritti fondamentali della Costituzione venivano completamente azzerati, perché una volta che si perde la residenza non si hanno più documenti validi e si è un vero nessuno, da qui anche il titolo del mio libro Io sono nessuno. Si perde il diritto alla sanità, il diritto a entrare anche solo nelle liste del sociale per poter essere aiutati. È un po' la storia del cane che si morde la coda. Si perde il diritto a lavorare con una busta paga regolare, piuttosto del diritto al voto. Quindi si diventa un nessuno, un clandestino nella propria città. Senta, Weiner, ancora un'ultima cosa, perché l'ultimo step di questa vita strana e straordinaria, perché uscire da questa situazione non è facile per nessuno, avete preso in gestione, lei e altri compagni di strada, un agriturismo in Toscana dove lavorate, le persone possono venirvi a trovare, è un'impresa vera e propria. È un'impresa basata sull'imprenditoria sociale, cioè tutto il ricavo viene reinvestito nell'impresa stessa per autosostenere il progetto totalmente autofinanziato. Abbiamo trovato degli sponsor iniziali che hanno creduto nel progetto e da 8 mesi 14 persone. Dove siete per venirvi a trovare? A Serravalle Pistoiese. Un bel posto, immagino. Serravalle Pistoiese, un bellissimo posto sulle colline sopra Monte Catini, molto bello. Molto bello, assolutamente. Insomma, sentiremo ancora parlare di Weiner Montini. Io sono nessuno, il libro è uscito da poco in libreria, la sua storia ve l'abbiamo raccontata, dalla situazione di clochard si può uscire, insomma anche questo si può fare. Grazie Weiner. Si deve soprattutto. Si deve, grazie per questa testimonianza. Naturalmente poi non è per tutti così facile, ma neanche per lui deve esserlo stato. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può fare, partire, ritornare, puoi tradire, conquistare, puoi dire, puoi negare, puoi giocare, lavorare, odiare, puoi amare, si può fare, puoi prendere o lasciare, puoi volere, puoi lottare, fermarti, rinunciare, si può fare, puoi prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare. Come avete sentito dalla storia di Weiner Montini, a volte scivolare nella povertà, nella miseria è un attimo. In poco tempo si possono perdere il lavoro, quindi la casa, a volte anche la famiglia. Ma chi ti aiuta quando ti ritrovi ad un passo dal baratro e la povertà davvero ti si spalanca in faccia come uno spettro terribile? A Novara, comune e privati stanno cercando di costruire una rete di salvataggio, una rete di famiglie, ed è questa forse la novità interessante. Ne parliamo con Fabrizio Serra, direttore della Fondazione Paidea. Buongiorno Serra. Buongiorno a lei. Anzi, Fabrizio. Di che si tratta, Fabrizio? Io dicevo, le famiglie entrano in campo, famiglie che adottano famiglie in difficoltà. È un'iniziativa che poggia appunto su questo ruolo della famiglia. Poggia su questo principio, sì. L'idea alla base del progetto in realtà è molto semplice, perché valorizza quelle esperienze di vicinanza, di prossimità, di sostegno, di aiuto anche informale, che anche storicamente sono sempre esistite tra le famiglie. Quindi una famiglia che è in difficoltà viene affiancata da una famiglia o da un gruppo di famiglie e entrambe si impegnano sottoscrivendo, diciamo, un accordo, un patto, stabilendo degli obiettivi per un periodo anche limitato. Quindi una famiglia in situazione di fragilità, sì, diremmo così oggi, può essere accompagnata e sostenuta nel valorizzare quelle che sono le proprie competenze, le proprie risorse, da una famiglia che appunto potremmo definire famiglia risorsa. Che tipo di obiettivi si possono mettere in comune in questo percorso? Facciamo qualche esempio concreto. Ma la famiglia in difficoltà può avere delle problematiche legate magari ad aspetti educativi, aspetti, diciamo, di gestione del quotidiano, anche può essere anche mancanza di tempo per stare dietro ai figli. Sì, la mancanza di tempo, oppure mancanza di risorse economiche proprio rispetto che devono essere in qualche modo o rinforzate oppure acquisite ex novo, oppure anche aspetti della gestione del denaro, quindi aspetti economici. Non è detto che la famiglia fragile sia del tutto priva di risorse, ma magari è incapace a gestirle in modo, diciamo, corretto. E questo può essere uno dei ruoli che la famiglia affiancante diciamo assume nel sostenere la famiglia, ma anche nel trasferirle delle competenze. E quanto tempo durano poi questi percorsi di affiancamento tra famiglie? Cioè, è una cosa in qualche modo sporadica o si va avanti per un certo periodo, si creano dei percorsi che durano? Sì, oltre a quello che ci dicevamo, in realtà, oltre a trasferire delle competenze, la famiglia risorsa trasferisce anche un patrimonio di relazioni, per cui è vero che il progetto di affiancamento ha una durata limitata, perché vengono definiti nell'accordo che citavo prima gli obiettivi facilmente raggiungibili, un tempo che oscilla tra i 6 mesi non è pochissimo, un anno, perché a me colpisce questo ruolo della famiglia, no? Questo mettersi in gioco, soprattutto da parte di chi si mette nella condizione di dare, non di ricevere, perché è ovvio che chi ha bisogno ben venga qualunque aiuto. Il bello è che invece c'è qualche famiglia che si mette in gioco, evidentemente perché queste relazioni che si creano poi danno molto anche a chi è lì per dare. Assolutamente, cioè il meccanismo di reciprocità che viene attivato riguarda tutte e due le famiglie, parte appunto dal presupposto che ogni famiglia ha delle risorse talvolta non ancora espresse, quindi si tratta di riscoprire quelle che sono le fragilità magari nella famiglia in difficoltà a quale dare una risposta, ma anche nel rivalorizzare quelle che possono essere invece le varie competenze che la famiglia disponibile, la famiglia affiancante al suo interno ha già, e quindi in qualche modo riconoscerle, farle rientrare anche in un'ottica diciamo di reciprocità tra famiglie, ma anche di sussidiarietà con i servizi territoriali, perché non dimentichiamo che questo servizio e questo modello di intervento non è nient'altro che uno strumento in più che viene messo a disposizione dei servizi territoriali, che in questo modo possono affrontare in modo diciamo più appropriato le situazioni più difficili. Senta, ma ci tolga anche qualche curiosità, quali sono le famiglie in difficoltà? Ce lo immaginiamo in qualche modo, probabilmente staranno anche crescendo, no, con questa fase di crisi economica. Sicuramente è una componente legata anche alla crisi del mercato del lavoro. Quindi. E invece da parte di chi si mette nelle condizioni di dare, come vengono raggiunte queste famiglie? Qual è l'identikit della famiglia media che vuole entrare in gioco e aiutare? Ma fin dall'inizio, fin dal primo progetto che venne avviato nel 2007 a Torino e poi successivamente a Ferrara e oggi appunto a Novara, Parma, Verona, provincia di Como, quindi ci sono molte le realtà su cui stiamo diciamo sperimentando questa modalità di intervento, cioè fin dall'inizio si è cercato di valorizzare anche la competenza propria delle realtà associative territoriali. Ogni territorio al suo interno ha già un patrimonio che deriva dalla capacità di rispondere ai bisogni di tutte le realtà associative che arrivano dal mondo laico, dal mondo cattolico, questo è, naturalmente sono realtà che da sempre diciamo si sono dimostrate attive e capaci di intercettare situazioni di bisogno, ma anche di offrire delle ottime capacità nel far fronte a questi bisogni. Quindi sono realtà associative, sono famiglie che magari già appartengono a realtà locali. Sì, quindi insomma non ci si improvvisa in qualche modo in questo mondo del dare e avere. Le famiglie disponibili fanno un percorso di formazione che le vede tutte insieme coinvolte nel comprendere anche quale tipo di supporto e di vicinanza possono offrire. Quante sono le famiglie più o meno coinvolte, sia in un senso che nell'altro, a Novara su questo progetto? Così poi ci salutiamo con questo messaggio, Fabrizio. Sì, a Novara siamo in fase di partenza, quindi siamo in questa prima fase in cui raccogliamo in questo momento le disponibilità delle famiglie che appunto affiancanti, mentre nelle altre città, a Torino sono oltre 120 gli abbinamenti già attivati, la stessa cosa è avvenuta in Emilia Romagna, a Ferrara, in provincia di Ferrara, e mentre siamo in una fase di sperimentazione a Verona, Parma, in provincia di Como. Provincia di Como, dopo le 8 situazioni diciamo che verranno prese in considerazione come a Novara per valutare il primo step sperimentale, si passerà poi alla definizione e l'ingresso di questa modalità di intervento all'interno delle politiche sociali territoriali, e quindi le situazioni aumenteranno sicuramente. Benissimo, grazie. Allora, buon lavoro, ne avete sicuramente bisogno. Fabrizio Sera, direttore generale Fondazione Paidea, e da Novara ci spostiamo sul Lago Maggiore. Dondolare tutti con un ritmo Specchio delle mie brame a Viganella dal 2006, non so quanti di voi lo sanno, c'è un mega specchio che riflette la luce del sole e consente a questo paese, che altrimenti sarebbe al buio per i mesi invernali, di essere illuminato attraverso questo specchio dalla luce del sole. Una notizia di qualche tempo fa che è stata riportata alla cronaca dal fatto che gli ideatori di questo progetto hanno ricevuto una menzione particolare. Ne parliamo con l'architetto progettista di questa cosa qua, Giacomo Bonzani. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, di questa notizia non si smette mai di parlare, cronisti a tutto il mondo, interesse per questa... Per tutto lo specchio è ancora su, funziona? Sì, sì, lo specchio è su, funziona, è garantito 30 anni, quindi ne sono passati solo 6, abbiamo tempo. E gli abitanti del paese ancora vi ringraziano per questo progetto... Uno dei pochi progetti, devo dire, straordinari che va in porto, perché spesso si fanno, si parla di grandi e piccole mega opere o anche avveniristiche, poi spesso si fermano su carta. Invece voi avete progettato e l'avete fatto. Sì, diciamo, io sono stato l'ideatore, poi sì. Se non avessi trovato, diciamo, il sindaco di allora, Midali, che ci ha creduto, ha cercato i finanziamenti, certo, eccetera, eccetera, poi chiaramente io mi sono avvalso di amici, collaboratori tecnici, poi c'è stato un appalto e i costruttori reali sono poi quelli, gli stessi che hanno costruito quegli specchi all'imbocco delle autostrade sulla Savona-Torino. Sì. Solo che lo specchio di Viganella, il mio progetto, aveva una movimentazione diversa, loro c'erano già sul mercato, avevano il brevetto e lo abbiamo adattato perché, certo, quelli che usano sulle autostrade hanno 200 metri, 150 metri di distanza da dove sono posizionati lo specchio e dove deve riflettere. Qua invece di più. C'è quasi un chilometro. Ecco, senta, la notizia è che dalla Francia il progetto di una giornalista, Catherine Bertillier-Chamengo, ovvero i mille pionieri di un nuovo mondo, pionieri del riciclo, della creatività ambientale, gli unici italiani inseriti in questa lista di questo sito, non so quanto prestigioso, lo dica lei, siete voi, quindi un altro riconoscimento, lei lo sapeva questo, sì? Sì, sono venuti l'anno scorso, mi pare, hanno inserito nei pionieri del nuovo millennio. Sì. Per dare l'idea ci dovrebbe essere anche Clinton che aveva finanziato delle scatole di, cioè delle scatole, delle case di cartone costruite in Canada e portate nei, dove c'è stato il terremoto, a Cuba o giù di lì. Quindi il livello è alto, ecco, penso. Per noi è stato un piacere, anche se da allora, specialmente il 2007, sì, 2006 alla fine, 2007-2008 siamo stati anche un po' il centro di attenzione, conferenze, sì, riunioni, sì, è stata l'unica ricompensa. Vabbè, insomma, però non è poco, oltre che non a quella c'è niente che paghi questo. Oltre alla ricompensa morale degli abitanti del paese. Sì. Senta, ma sì, secondo lei l'Italia è un paese da non dico grandi opere, ma da opere avveniristiche, da scommesse di questo tipo oggi? Sì, ci sono tanti giovani, tanti anche meno giovani che hanno delle belle idee, purtroppo poi ci si scontra con la realtà, perché noi diciamo avevamo anche altre idee, per farla breve, un generatore di fotovoltaico che però funzionava il doppio perché illuminato davanti col sole naturale e dietro con uno di questi specchi, quindi su una superficie molto ridotta in montagna si poteva impiantare questa cosiddetta caffettiera solare, che poi non è andata in porto per tanti motivi, però noi siamo fiduciosi perché le idee ci sono sempre. E va bene, insomma, noi volevamo sottolineare questo: a distanza di anni la grande invenzione di Viganella resiste e viene ancora premiata grazie all'architetto Bonzani. Lo specchio di Viganella reinserito da Chamengo tra i mille pionieri di un nuovo mondo. Si può fare cronache da un paese migliore. Tassare la prostituzione, che equivale a miliardi di euro. Eliminare il 90% delle 60.000 auto blu, eliminare il 90% delle 730 scorte armate, fare lavorare i detenuti sani di salute e rimpatriare i detenuti stranieri. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Siamo in campagna elettorale, anche noi si può fare. Avete sentito l'ascoltatore alla segreteria telefonica con il suo elenco di richieste, di proposte, di ricette per salvare l'Italia in un minuto, come vi chiediamo ogni settimana. E vi chiediamo anche di andare sulla pagina Facebook, si può fare trattino Radio 24, e di seguirci anche su Twitter, si può fare 24, per restare sempre, sempre in contatto. Oggi siamo partiti da una bella storia. Noi aspettiamo le vostre segnalazioni, le vostre buone notizie. La buona notizia di questa settimana è, durante questo freddo invernale, l'emergenza per i clochard. Avete sentito la storia entusiasmante di Wagner Montini, presidente del sindacato dei clochard, clochard alla riscossa. Adesso ha scritto un libro, Io sono nessuno. Ci ha raccontato, insomma, come si può fare, si può uscire da questa difficilissima condizione. Adesso andiamo all'Aquila e poi non dite che le università non assumono più. Non c'erano TV come di Nembo Kid, né radioattive come Nubia Chernobyl. C'era l'uomo qualunque, sostenuto dal fronte dell'uomo qualunque. Nella schiena dei partiti affondo le unghie. Io non sono di destra né di sinistra, sono un uomo qualunque. E lo Stato è demagogo, nel sistema bipolare non mi ci ritrovo. Oh, ferma tutto, devo aver avuto un herpes, dato che questo sfogo non mi è nuovo. Vivo decenni dopo nello stesso clima che su questo fuoco getta più benzina. Ma non c'è più l'uomo qualunque, tutti sono qualcuno, tutti sono in vetrina. Tutti sognano di diventare qualcuno, magari all'università, magari con una carriera da professore, da docente o da ricercatore. Pochi ce la fanno perché le università italiane effettivamente sono un po' ferme lato assunzioni. Ma c'è qualcuno che va controcorrente. Salutiamo il rettore dell'Università degli Studi dell'Aquila, Ferdinando Di Iorio. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, voi avete assunto o state assumendo quante persone? Una cosa che di questi tempi, mi scusi la banalità, ma fa notizia. No, fa notizia senz'altro. Ma noi abbiamo assunto 13 ricercatori, 13 giovani ricercatori. Oh, bellissimo, qua ci vorrebbe un applauso, perché tutti, si dice sempre che la ricerca non va, che non funziona, che bisogna andare all'estero. Non è vero, andate all'Aquila, 13 ricercatori. No. Si fa una grande fatica però a trovare i finanziamenti per queste assunzioni, si fa una fatica per quanto riguarda la prospettiva che si devono creare nel mondo della ricerca. I finanziamenti del nostro paese sono molto bassi, quindi tutto quello che si riesce a fare è veramente conquistato con lacrime e sangue. Voi come avete fatto? Avete vinto al Superenalotto? Avete scommesso? No, noi abbiamo semplicemente dimostrato al New York che avevamo un bilancio da questo punto di vista solidissimo, e quindi il New York ha consentito che noi procedessimo a queste 13 assunzioni. Senta, però, dimostrare appunto che non si spende molto per quanto riguarda le spese del personale. Adesso ci sono provvedimenti legislativi che determinano un rapporto fra spese del personale e l'intero budget di Ateneo. Noi abbiamo dimostrato che eravamo sotto e quindi abbiamo avuto questa possibilità di fare questa assunzione. Senta, rettore Di Iorio, in quali settori della ricerca avete fatto queste... Praticamente in tutti. Noi abbiamo l'Università dell'Aquila, è la nostra università generalista, cioè noi andiamo da ingegneria a medicina, a lettere, a scienza formazione, a informatica. Abbiamo praticamente tutti i settori disciplinari presenti nel paese, quasi tutti. Ma ci dica un po' quali sono i settori di tendenza, insomma la sensibilità vostra, dove state andando? Noi puntiamo molto su alcuni settori, come si sta puntando nel paese. Insomma, noi abbiamo fatto una scelta coerente a quella del paese di puntare sulle lauree scientifiche, cioè sui settori scientifici, perché sono quelli che danno poi sviluppo, non dimenticando comunque anche che abbiamo importanti settori umanistici, e quindi abbiamo fatto una compensazione. In questi posti diciamo che il rapporto è più o meno di 1 a 6 a 7 per quanto riguarda i settori umanistici e quelli di carattere scientifico. Mm. Ripeto, senta, sì, è l'indicazione del paese questa, non è l'indicazione aquilana. Noi... Ha ragione, perché tra l'altro qualche sera fa ho sentito Romiti, Cesare Romiti, sì, in televisione dire nessuno ha un'idea per fare l'occupazione in Italia. Per fare l'occupazione in Italia ci vuole un piano per ricostruire l'Italia dal punto di vista ambientale, paesaggistico, del patrimonio edilizio. Lei è d'accordo su questo? Un tema, tra l'altro, che in campagna elettorale mi pare che non se lo fili nessuno, è gravissimo. Io devo dire che sono delusissimo, perché in campagna elettorale di tutto si parla, di tutti gli elementi politici, meno che dell'università. Recentemente è stato realizzato un appello per l'università, che abbiamo firmato in molti. Speriamo che venga recepito dalle forze politiche. Tra l'altro, ricostruire l'Italia, lo dico a lei che sta all'Aquila, e quindi insomma. C'è la ricostruzione, per noi è una ricostruzione doppia, diciamo. No, io, ecco, la cosa che volevo dirle è questo: che chiaramente i settori che danno possibilità di occupazione sono quelli che provengono dall'area scientifica, perché sono quelli che appunto incidono più sul territorio, che si riescono a legare le attività produttive. Noi, per esempio, all'Aquila abbiamo 11 spin-off, che sono, ecco, delle aziende che nascono intorno a brevetti, a conoscenza universitaria, diciamo. In che periodo di tempo avete messo a punto questi spin-off, Rettore? Non ho capito, mi scusi. In che arco temporale sono nate queste 11 aziende dall'università? Negli ultimi anni prima del terremoto, diciamo, sì, dal 2007. Sa perché glielo chiedo? Perché curiosamente ho letto l'altro giorno una notizia dell'Università, sì, di Firenze, che vantava un record nazionale con 15 spin-off in 2 anni. E almeno voi vi battono, in effetti, questo, sono stati onesti. Sì, sì, sì. Avete avuto 11. Firenze ovviamente è un centro un po' più importante, però anche voi avete le vostre. Io sono contentissimo che l'Università di Firenze lo faccia, perché io penso, e non sono solo in questo, che il vero futuro del nostro paese è sull'innovazione, sulla ricerca scientifica. Il manifatturiero penso che più di tanto non possa dare al nostro paese. Senta, quindi però mi auguro che ci sia questo investimento. Io la domanda un po' difficile la devo fare, è la domanda, non tranello, però insomma, i cognomi di questi 13 assunti, cioè ce li deve dire, sono cognomi che si ripetono? Nessuno è parente, meno male. No, può stare tranquillo, adesso i cognomi ovviamente non li conosco, ma stia tranquillo che non ha nessun legame di parentela con altri docenti universitari del nostro Ateneo. Questa è una pratica che purtroppo è venuta fuori, come le tante critiche che vengono al sistema universitario, ma che ha riguardato veramente piccole realtà. Allora, ce lo ridica un attimo, Rettore di Iole dell'Università dell'Aquila, 13 assunti, nessuno ha cognomi di professori presenti nella nostra università, lo posso assicurare. Ecco, un applauso se lo meritava tutto, perché io avevo un po' pauretta, perché la notizia era di quelle fatto, buone. Però sai com'è. Ho fatto bene a domandarmelo. Tra l'altro, visto che... Comunque, anche se accadesse, non credo che sia un fatto drammatico. Non faccia anche lei adesso il più realista del re. No, proprio accade. Voi che non l'avete fatto, non è che lei c'ha qualche parente? No, assolutamente no, nessuno. Non ci sarebbe niente di male, questo lo sappiamo tutti, è chiaro. Però sa com'è, si fa peccato, ma non si sbaglia, si diceva qualcuno. Sono medico e opero nel campo della medicina, dell'epidemiologia, mia figlia ha fatto una scelta completamente diversa e si occupa di storia dell'arte, quindi non c'è nessun nepotismo da parte mia. Ha fatto una scelta sua di livello culturale, che io apprezzo e ammiro per essere anche più autonoma rispetto al padre, e sono estremamente felice che l'abbia fatto. Benissimo, anche questo pezzettino di storia personale, insomma, grazie per questa bella storia dall'Università dell'Aquila, un'università non di primissimo piano, se vogliamo, ma che... Per noi è di primissimo piano. Vabbè, certo, è ovvio. Per noi che ci lavoriamo, sì. Qui ho fatto una gaffe clamorosa, perché dirlo davanti a lei, però insomma, tutti sanno che non è una delle università di punta, però una bella università. Vorrei un po' contraddire, sì. Noi abbiamo, prima del terremoto, avevamo una situazione tra le più forti, non voglio fare il trionfalismo, però devo dire, prima del terremoto noi eravamo tra le università più forti del centro-sud per quanto riguardava per esempio i fondi che prendevamo sulla ricerca scientifica da fondi internazionali. Avevamo attività di carattere internazionale, le più sviluppate di tutte le università del centro-sud. E comunque, guardi, glielo dico, mi ha convinto, perché è meglio un'università come questa che università più grandi, con più nomi all'estero, eccetera, che fanno tante, porcate. Ecco, voi allora, ripeto la notizia, avete assunto 13 persone senza che ci sia un cognome che si ripete, e questa è una grandissima, bella notizia, grazie. Grandissimi, grandissimi all'Aquila, bravi, bravi, bravi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. It's a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Because 2 times 3 is 6. And 3 times 6 is 18. And the 18th letter in the alphabet is R. Yeah. We got 3 R's we're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Where's it? Ecco, questa è la nostra sigletta quando parliamo di sostenibilità, di cose che hanno a che fare un po' con l'ambiente. Riduci, riusa, ricicla. Ridurre, ognuno fa un po' quello che gli pare. Il riciclo si sta facendo sempre di più, ci sono in quasi tutte le città le oasi del riciclo dove si va a buttare la roba esausta. Sul riuso invece siamo forse un pochino più indietro. A Bologna invece sono abbastanza avanti con Second Life, un non so come definirlo, un negozio dove si riusa. Lo chiediamo a Zeno Gobetti, responsabile della cooperativa Faremondi, che gestisce questo spazio. Buongiorno Zeno. Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. Non è un negozio perché non si paga. Non si paga nulla, Second Life. Però che cosa si fa? Second Life è uno spazio del riuso, cioè è uno spazio dove i cittadini di Bologna possono venire a consegnare degli oggetti, tutto ciò che trovano in cantina, tutto ciò che trovano nella loro casa e che non serve più. Ovviamente oggetti direttamente riutilizzabili, li portano, li consegnano da noi e noi li rimettiamo semplicemente a disposizione di altri cittadini. Gli date una spolverata, un'oliata, esatto, se c'è bisogno, insomma verificate che funzionino, perché non volete cose che non funzionino voi. Esattamente, non siamo ancora in grado di effettuare riparazioni sugli oggetti consegnati. Raccogliete tutto questo materiale, lo mettete in esposizione. Dove siete a Bologna, per chi non vi conoscesse, in questa comunque grande città? Diamo l'indirizzo, va. Allora, noi siamo in via Marco Emilio Lepito, nel quartiere Borgo Panigale, numero 186/7, che è vicino sostanzialmente alla stazione ecologica. L'idea di mettere insieme stazione ecologica da un lato è agganciato una struttura del riuso, è stata un'intuizione. Cioè, da una parte si buttano le cose, le cause perse, cioè gli oggetti veramente esausti, e invece voi vi prendete le cause che possono ancora dare avere una seconda vita. Li tenete lì aspettando che arrivi qualcuno interessato. Esattamente, noi ritiriamo questi oggetti che ci vengono consegnati, li mettiamo a disposizione di altri cittadini per almeno 90 giorni. Se vediamo che non c'è una risposta positiva da parte degli utenti, li conferiamo noi in stazione ecologica. Diciamo, può essere un'anticamera della discarica oppure può essere un negozio dove non si paga, perché chi viene a ritirare può lasciare un'offerta, credo di aver capito. Semplicemente un'offerta che viene utilizzata per progetti legati all'ambiente. L'offerta va ad Orius, che è un'associazione che si occupa di progettazione ambientale, nella speranza di elaborare progetti che possano ampliare l'attività della struttura. Ecco. Però uno può anche non lasciare nulla? Sì, sì, non è semplicemente una donazione non obbligatoria. Magari lo guardate un po' maluccio, però lo fate entrare lo stesso. No. non da parte nostra, sì. Sicuramente, nel senso che la finalità sociale della struttura, che è la seconda finalità oltre a quella del riuso e quindi della riduzione dei rifiuti, sta proprio nel fatto che gli oggetti non hanno un valore monetario e quindi possono andare ad aiutare le persone che hanno bisogno di quel tipo di oggetti. Un'iniziativa, Zeno, che deriva da chi? Dal comune, dai privati, da voi, mondo delle cooperative? Chi è che ha avuto l'idea? L'idea è nata dal Comune di Bologna. Il progetto è un progetto del Comune di Bologna, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Sì. Il progetto è stato realizzato, la struttura è stata realizzata sostanzialmente con il contributo e collaborazione di ERA, proprio per creare la sinergia positiva con la stazione ecologica. Che è l'azienda che si occupa dei rifiuti a Bologna. Esattamente, sì, nell'area emiliana. E poi la gestione effettiva è stata affidata a un gruppo di cooperative sociali che si chiama SIC, all'interno del quale c'è la mia cooperativa, che è Faremondi di Piazza Grande, in collaborazione con La Strada, sempre di Piazza Grande, che sono le cooperative sociali di inserimento lavorativo legate all'associazione Amici di Piazza Grande. Siamo partiti oggi dalla storia di Wagner Montini, un clochard che è uscito da questa situazione e tra l'altro ha aperto un agriturismo, sta facendo di ogni, e quindi ci ricolleghiamo, perché gli Amici di Piazza Grande anche di questo, no? Si occupa delle persone senza fissa dimora. Senta Zeno, mi faccia un po' però l'identikit medio della persona che viene a portarvi il frullatore piuttosto che lo stereo o il vecchio divano, non so, io adesso non riesco a immaginarmi, ma credo che insomma la casistica sia ampia, e poi anche l'identikit di quello che invece viene a cercare roba, perché immagino che le due figure siano anche un po' differenti, o no? Ma certamente le persone che vengono a consegnare oggetti sono di qualunque tipo, nel senso che l'esigenza di sgomberare una cantina, l'esigenza di fare spazio nella propria abitazione domestica, credo ce l'hanno un po' tutti, che riguardi tutti sostanzialmente, quindi non c'è un vero tipo di diciamo portatore di oggetti ben identificabile. Però magari nel vostro caso, perché più che buttare si danno a voi in attesa che qualcuno li faccia vivere una seconda vita, allora forse non so se c'è anche un senso affettivo rispetto alle cose da cui ci si separa, o un senso di responsabilità da parte di chi viene lì da voi più elevato rispetto alla media, non so se questo lo riscontrate oppure no. Sì, indubbiamente la finalità sociale noi la sottolineiamo sempre dell'iniziativa, quindi sicuramente nell'area bolognese è maturata un pochettino questa sensibilità verso Second Life, non semplicemente come uno strumento per ridurre i rifiuti, ma anche come uno strumento per offrire oggetti al resto della comunità. E invece dall'altro lato di chi viene in cerca di cose, che tipo di identikit si può fare? Invece i soggetti sono ancora più vari, perché ci sono le persone che hanno oggettivamente bisogno, che vanno alla ricerca di oggetti necessari, sì, quindi che soddisfano esigenze primarie, non so, i piatti per la casa, stoviglie in generale, a quelli che a Bologna vengono chiamati ciappinari. Quelli che aggiustano un po' tutto e che quindi vanno a cercare pezzi di ricambio per fare il lavoro a casa della suocera. Va bene, insomma, quindi un mondo variegato anche da questo punto di vista. Io spero che chi è all'ascolto e magari in altre città si è ispirato, anzi se invece volete scriverci su Facebook o anche alla mail, si può fare radio24.it, se conoscete altre esperienze simili ne parleremo, vedremo quali sono le differenze e le originalità. Grazie intanto a Zeno Gobetti, responsabile cooperativa Affari Mondi di Bologna, che ci parlava di Second Life. Per questa puntata di oggi è tutto, io ringrazio Franco Piantanida in redazione, Andrea Piana che ha scritto con me il programma, Pietro Lacorte. Ci risentiamo sabato prossimo. Buona giornata, andate sul sito, partecipate al concorso, si vincono anche dei premi. Buona giornata.